Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Beh, certo, poi bisogna vedere se sarà anche una buona serata, perlomeno per i tifosi di Milan e Roma, come non è stata invece una buona serata quella di ieri per gli interisti, su cui si è stagliata la figura di Bale, strepitoso esterno mancino del Tottenham, che ha fatto a fettine prima Maicon e poi di conseguenza anche l'intera difesa interista. La serata di ieri merita due approfondimenti, uno di cronaca e uno che forse potrebbe anche diventare storia, ma andiamo con ordine, sentiamo qualche commento alla partita di ieri sera, anzi il primo potremmo anche ricavarlo da un'agenzia appena battuta che arriva da Londra e che è il giudizio di Roberto Mancini, che ieri ha assistito alla partita e ha detto: Gareth Bale in questo momento salterebbe chiunque, è giovane, è bravo, è uno dei migliori giocatori della Premier League e attraverso un momento di forma splendida, quanto all'Inter paga le tante assenze. Beh, questa potrebbe in effetti già essere la sintesi un po' della serata di ieri, sentiamone qualcun'altra, cominciando con rendere omaggio, ne abbiamo parlato la settimana scorsa con suo padre, con Cudicini padre, stavolta invece parliamo, sentiamo la voce di Carlo Cudicini, del figlio, che ha giocato da titolare per la squalifica di Gomez contro l'Inter e se l'è cavata con onore, salvando anche un gol praticamente fatto su una punizione di Snyder. Cudicini: vittoria molto importante per noi, una vittoria che ci permette di, insomma, adesso di avere un po' più il nostro destino in mano, e poi per me personalmente ovviamente sì, insomma, da milanista è chiaro. Abbiamo giocato molto bene, devo dire la verità, stati molto bravi quando abbiamo avuto la possibilità di far male e molto bravi anche a difenderci, per cui credo che è stata veramente una prestazione complessiva di tutta la squadra eccezionale. L'ho detto all'inizio della Champions, siamo una squadra ovviamente che ha la prima esperienza in Champions, è una squadra giovane che deve fare esperienza, per il resto ci stiamo divertendo, ovviamente a questo punto siamo abbastanza vicini a andare al prossimo stage, che sarebbe un risultato incredibile. Il prossimo stage sarà il prossimo stage forse, ma insomma comunque il prossimo turno immagino intendesse dire. La serata di ieri, dicevo, merita un paio di approfondimenti. Quello di cronaca è legato all'ennesimo infortunio muscolare di un giocatore dell'Inter, che è Muntari, e che è il 16° dall'inizio di stagione. Il totale assoluto è 25 infortuni, ma muscolari 16, e in questo momento l'Inter ha fuori l'intero centrocampo per guai muscolari. Di questo parleremo più avanti con il dottor Piero Volpi, che tra le altre cose è anche l'ex medico sociale dell'Inter. L'episodio storico invece di storia della TV, ma forse in futuro anche del calcio inteso come spettacolo televisivo, è legato al debutto giusto ieri sera del calcio in tre dimensioni. Do il bentornato ad Antonio Di Pollina. Buongiorno Antonio. Buongiorno, ciao, eccoci. Dunque, leggo la prima parte del tuo articolo di stamane, titolato "E la sconfitta vista in 3D fa ancora più effetto". Beh, potremmo subito sfogarci con le gag, dunque 3D vuol dire tre dimensioni, i milanisti sostengono che in realtà è 3P perché sono tre le pere prese dall'Inter, e oggi è 3 novembre, 3 è il numero di maglia di Bale, ci sono un po' di suggestioni. Tornando seri, Castellazzi prende il gol, è scritto stamattina, poi ne prende altri due, sì, ma li prende in tre dimensioni, ed è un'altra cosa comunque, perché anche il tifoso più accanito dall'inizio della gara si sta perdendo dentro alla nuova meraviglia diabolico-tecnologica, appunto il 3D, che ieri sera ha debuttato ufficialmente da noi alla voce partita di calcio. L'ha fatto Sky allestendo l'evento come una sorta di sbarco sulla Luna, con relativi spot e nuovo canale apposito, e per la visione ha chiamato a commentare Beppe Bergomi. Poche decine di migliaia finora i televisori adatti in Italia, molta incertezza sul futuro, ma il giochino è irresistibile. Sei tu spettatore che entri allo stadio o è lo stadio che entra in casa tua? Ci aiuti a capire, visto che tu sei uno dei pochi fortunati che hanno assistito a questo sbarco sulla Luna, ci aiuti a capire in che cosa consiste un po' più concretamente? Allora, chi ha visto già i film in 3D, che al cinema ci sono da un po' di tempo, un'idea vaga di quello che succede può averla, ma non riesce a rendere appieno l'idea di quello che è invece il 3D sulla realtà effettiva, perché un conto è vedere i cartoni animati, un conto è Avatar, un conto sono cose costruite apposta per l'occasione, un conto è la tecnologia che interviene su un evento, sull'evento reale e in diretta, il più seguito per eccellenza come lo sport, e in questo caso una partita di calcio molto seguita. Cambia effettivamente tutto. Possiamo essere antitecnologici quanto si vuole, ma la visione è dirompente, cioè il fatto di vedere queste figure che sembrano davvero reali, con la profondità dello spazio, delle dimensioni, c'erano delle inquadrature, ahimè, del povero Benitez che come sappiamo è un po' in sovrappeso, preso dal bordo del campo, inquadrature in parallelo che gli rendevano davvero giustizia, cioè sembrava effettivamente avere un pupazzone vero in tre dimensioni di Benitez a distanza ravvicinata. Dopodiché, se sei molto interessato alla partita di calcio, segui l'azione e magari non pensi tanto al 3D, ma appena l'arbitro fischia e c'è il primo piano, i giocatori che si abbracciano, il giocatore che protegge l'arbitro, l'inquadratura sul pubblico, che poi è una cosa particolarmente folle in sé, cambia davvero tutto, e a parole non si riuscirà mai a spiegarlo e a rendere l'idea. Ti sembra davvero, quando inquadrano il pubblico nelle tribune, di poter allungare una mano, prenderne uno come se fosse appunto un pupazzotto gigante e portartelo dentro la stanza, cosa che nessuno farebbe se non in casi particolari, però fidatevi, cioè chi non l'ha ancora visto deve un po' fidarsi. Tutti quelli che eravamo ieri sera a questa visione di Sky, francamente, per quanto facessimo un po' gli snob e facessimo un po' quelli legati a altre concezioni della partita di calcio, eravamo francamente un po' piacevolmente frastornati, ecco, userei un termine di questo genere. Beh, io lo ricavo anche dal commento che ho letto, dal servizio che ho letto sulla stampa. Luca Dondoni ha scritto un servizio su Genere al Tuo e l'ha concluso dicendo: uno spettacolo talmente bello da ingigantire gli interrogativi sul futuro degli stadi. Beh, questa mi sembra una proiezione impegnativa, sinceramente, però... Allora, ti dico subito, è impegnativa sicuramente, ma rispetto, cioè noi, come dicevo prima, possiamo fare quelli contro la tecnologia, perché comunque allontana, spersonalizza, fa diventare tutto virtuale, però c'è il dubbio che questa cosa invece vada un po' in direzione contraria, perché davvero va più incontro al fatto, alla personalità del tifoso che è allo stadio, a quello che vede, a quello che sente, a come vede le cose. Ci si avvicina molto di più, ovviamente mediato da una serie di alchimie elettroniche che sono assolutamente folli. Se uno si fa spiegare esattamente in cosa consiste il 3D e cosa devono mettere in piedi per riprendere in quel modo, si diventa matti. Però davvero è la prima volta che la tecnologia dà più l'idea di essere nel posto fisico, di avvicinarsi al posto fisico dove succedono le cose. Quindi la considerazione non è sbagliatissima, quantomeno a livello di intenti direi che ci siamo. Ovviamente bisogna attendere una cosa che è fondamentale, cioè finché è per pochi, per quei pochi che hanno il TV in tre dimensioni in casa, pare che siano 30.000 in tutta Italia e così via, possiamo fare delle considerazioni come ci vengono. Un conto è la reazione del grande pubblico che può avere quando la cosa sarà la più diffusa possibile. Ecco, infatti, dato che stanno arrivando dei messaggi che per l'appunto sono curiosi sulle possibilità evolutive, non dico immediate, ma comunque nel tempo, tu hai scritto anche qualcosa che riguarda questo. Io però ho un obbligo e quindi un minuto di intervallo per il traffico. Ancora un paio di domande per Antonio Di Polina. La prima è proprio in proiezione. Tu scrivi: peggio ancora tentare di capire quale sarà l'evoluzione del giochino. Il colosso Toshiba ha annunciato di essere a buon punto con televisori di ultra nuova generazione che non avranno più bisogno di costringere lo spettatore a inforcare gli occhialini, che oggi è la condizio sine qua non per vedere in tre dimensioni. Pare che sia vero. Quello che non si capisce è se ci vorranno 5 mesi o 20 anni, e questo fa differenza. Tra i 5 mesi e i 20 anni, tu come cosa ti immagini? Io mi immagino una cosa, diciamo, di almeno un anno perché si possa vedere la prima sperimentazione, perché effettivamente con gli occhialini e senza è una gran bella differenza. Il punto è che quando appunto la casa elettronica in questione giapponese 2 mesi fa ha annunciato di essere a buon punto nella sperimentazione di televisori che in maniera naturale, con tutte le virgolette che ci vuoi mettere, fa vedere in 3D senza che tu spettatore debba inforcare gli occhiali, ha creato un subbuglio spaventoso, perché chi adesso sta vendendo i televisori invece con gli occhialini l'ha presa malissimo, scoprendo che rischia di avere una produzione vecchissima e ancora di più l'utente si è trovato disorientato. Su questa cosa però non c'è assolutamente chiarezza, non ci sono notizie certe e si sta aspettando di vedere un po' l'evoluzione. Secondo me non sarà per questo Natale, ma non escluderei che il prossimo Natale il televisore naturalmente, insisto con virgolette, sì, in 3 dimensioni possa diventare il gadget più ambito. Va anche detto che ormai televisori in 3D, si fa per dire sempre, con tutte le proporzioni del caso, si trovano anche a cifre intorno ai 1500 euro, che rappresentano per la categoria ormai non l'impossibile, e quindi chi vuole può provare a scegliere anche adesso e soprattutto cercando di capire quanti programmi, quante trasmissioni, quanto sport, quanto cinema le televisioni decideranno certo, nell'immediato futuro. Direi che lo capiremo da quello, quanto più le TV intensificheranno la strategia, tanto più saremo vicini all'evoluzione completa, perché se vanno avanti vuol dire che un motivo c'è e vogliono assolutamente arrivarci per fare colpo, perché questa cosa, ahimè, ahi noi, o per fortuna o come volete voi, fa colpo. Lo credo. Alessandro da Senigallia comincia a porsi il problema, dice: con l'alta definizione e il 3D la moviola sarà ancora più un delirio. Sì, vabbè, ma non cominciamo a fasciarci la testa adesso. Ci ha parlato di Polina nella migliore ipotesi del prossimo Natale, che vorrebbe dire 2011, a differenza di quello 2013 che, come è noto, coinciderà, questione di pochi giorni, con la fine del mondo. Invece tornerei su ieri sera, perché non posso non chiedere a un collaudato, non ho detto vecchio, ho detto un collaudato cuore nerazzurro, secondo te in quante dimensioni Benitez e l'Inter hanno visto la partita d'andata per lasciare tutto quello spazio a Bale ieri sera? In parecchie dimensioni sicuramente. Poi ieri l'abbiamo rivissuta, ho visto che a Benfica Lione è successo esattamente la stessa cosa. 4-0-4-3, è vero. Mm-hmm. Esatto, è un'area che gira un po' di questo tipo. L'Inter invece in qualche modo ha abbastanza voglia di tornare a una storia fatta di pazzie, sorprese, alti e bassi, cosa che in molti probabilmente speravano fosse finita. Invece evidentemente ci siamo di nuovo dentro. Però insisto, vedere in 3 dimensioni il tuffo di Castellacci sul secondo gol ha abbinato una quantità di sentimenti che sarebbe tra tecnologia e tifo che sarebbe impossibile spiegare appieno. Certo, diciamo che per Antonio Di Polina il debutto in 3 dimensioni è servito, se non altro, a lenire, no? Ad allontanare la focalizzazione, a spostarla sul televisore, sulla fruizione, anziché sul risultato. Al prossimo appuntamento, Antonio, grazie. Ciao, grazie a voi. Chiudiamo questo collegamento con Antonio Di Polina, ricordo, critico televisivo, ma non solo, di Repubblica. Adesso ci spostiamo, in attesa di qualche vostro intervento, magari prima di quello autorevole del dottor Volpi sul clou di giornata che sono gli infortuni muscolari dell'Inter, ci spostiamo in proiezione sulle partite di stasera e sentiamo le due vigilie, cominciando da chi gioca fuori casa, Ranieri, sulla vigilia di Basilea. Sì, è una gara molto importante per noi e per il Basilea, due squadre che vogliono passare il turno, abbiamo tutte e due le stesse possibilità e tutte e due vogliono girare il destino a loro favore. Sappiamo che è una partita bella, avvincente, dobbiamo giocare con molta determinazione ma restare sereni, perché nella gara d'andata abbiamo sbagliato molto e loro sono stati molto bravi a sfruttare le 3 occasioni che hanno creato. I ragazzi stanno bene, quelli che sono qui stanno bene, Francesco ha ancora il dolore alla spalla, ma credo che domani sera sarà regolarmente in campo. per farmi uno shampoo di cenere, perché mi scrive Paolo per gli amici Paul, ed è già questa è una discreta dose di ironia. Dice: mi stupisce di sentire da uno sportivo di mondo come lei commentare sgomento lo stage di Culicini. Stage in inglese calcistico sta per fase, la prossima fase prevista per il Tottenham è indubbiamente il prossimo turno. È vero, anche il prossimo gradino, però, no? Anche il prossimo step sarebbe stato il prossimo turno, da lì l'equivoco per uno che sinceramente l'inglese è costretto a conoscerlo, ma lo padroneggia molto relativamente. Paul, grazie di questo shampoo ironico e affettuoso. Insieme ha letto Gramellini su Cassano, fantastico, scrive Mauro. Sì, l'ho letto stamattina, perché la rubrica di Gramellini sulla Stampa è imperdibile, e quella di stamane era vorrei dire come sempre particolarmente azzeccato, poi in realtà sono concetti che si elidono e quindi valgono tutti e due, li mettiamo separati come sempre, e però anche particolarmente azzeccato. La vigilia di Allegri che mi pare, insomma, essendo stato richiamato affettuosamente all'ordine la notte di domenica dal suo presidente, che l'aveva definito spettinato, ieri si è presentato immediatamente fresco di barbiere di fronte a telecamere e microfoni, segno che il messaggio, almeno quel messaggio, è arrivato a destinazione. La formazione poi la vedremo stasera. Allegri: io credo che la forza del Real la conosciamo tutti, però conosciamo anche la forza del Milan, e credo che laggiù nel primo quarto d'ora abbiamo sbagliato molto, come abbiamo ripetuto diverse volte, come ho ripetuto tante volte, e abbiamo preso due gol anche abbastanza fortunati da parte loro. Però è normale che bisogna giocare, quando giochi queste partite non puoi pensare di giocare male tecnicamente, e noi a Madrid l'abbiamo fatto, e quindi bisogna sicuramente non ripetere quella prestazione sotto l'aspetto tecnico, e sicuramente fare una partita di grande pressione. Ha chiamato Angelo dalla provincia di Bergamo, buongiorno. Buongiorno, buona giornata, grazie di tutto. Io sono tifoso interista, però mi sembra che lì all'Inter quel bel giocattolo che c'era una volta è rotto. Credo che i giocatori non seguono più Benitez, e come diceva giustamente la radio, no? Che in tre dimensioni Benitez mi sembrerebbe l'uomo Michelin. Non è capace di dare una carica a questa squadra, e lì parla, ma come tifoso sono deluso. Io credo che le responsabilità siano tante. Tra poco sentiremo che cosa ne pensa il dottor Volpi, perché mi pare che la principale sia comunque quella degli infortuni, e la spiegazione principale: l'Inter non ha mai giocato al completo una partita in questa stagione, e più passa il tempo e più, anziché recuperare giocatori, ne perde di altri. Quindi questo mi sembra il nocciolo del problema, indipendentemente poi da altri. Capire perché tutti questi infortuni avvengano, quali sono le responsabilità dei vari staff che ci sono in una società. Fermo restando che poi gli infortuni non riguardano soltanto l'Inter, sia ben chiaro, perché stanno riguardando un po' tutte le squadre, e in particolare da noi le grandi squadre. Pensate che soltanto ieri si sono fermati insieme Felipe Melo e Sissoko alla Juventus. Poi non dovrebbe essere stata una misura precauzionale, ma sono in forse tutte e due per la partita di Coppa. E se pensiamo a quanti sono già gli infortunati anche alla Juventus, sono davvero tanti. Se parliamo di portieri, stamane Muslera per esempio non si è allenato nemmeno oggi, a questo punto oggi sosterrà un'ecografia ed è in forte dubbio per il derby romano di domenica. Ma ce n'è una cui è andata peggio, perché in un infortunio accusato ieri in allenamento, Frey, portiere della Fiorentina, dunque dovrà essere, sto leggendo la prognosi esatta, la prognosi e la diagnosi soprattutto. Insomma, la prognosi è un problema al ginocchio, un problema grave. La prognosi dopo un intervento chirurgico che ormai si rende necessario varierà tra i 4 e i 6 mesi, quindi capite che stiamo parlando di infortuni di vera gravità. Giovanni Elina da Napoli, buongiorno. Buongiorno, complimenti. Due cose brevi. Una, per quanto riguarda la partita di ieri, ho avuto la fortuna di comprare una televisione in 3D proprio una settimana fa, ho assistito a uno spettacolo stupendo. Se avessi potuto vedere me, diciamo abbracciarmi mentre il Tottenham ha segnato con i tifosi del Tottenham, è stata una cosa incredibile, è una cosa che consiglio. Io da tifoso del Tottenham mi sono abbracciato con i miei colleghi inglesi. Un tifoso del Tottenham napoletano? Sì, del Tottenham, sì, perché diciamo sono tifosi di ogni squadra che gioca contro l'Inter. Però questo già mi torna di più, insomma. Mi abbracciavo con i miei colleghi di ieri sera, non so che gioco. E un'altra cosa, diciamo, che cambia proprio argomento, volevo sapere se Marco Bellinazzo, quando magari ci sarà la possibilità, se ci può dire, diciamo, le pensioni dei calciatori, di un calciatore medio di Serie A, come è regolato come pensione, come previdenza sociale dopo che aveva smesso di giocare. La ringrazio e complimenti. Grazie a lei, Giovanni. Ogni tanto arrivano gli interventi sorprendenti, non sono così, così rari. Questo, insomma, fa parte appunto degli interventi rari. Come avrebbe visto Santon al posto di Maicon? Domanda Antonio da Brescia. Ma insomma, io dopo la partita avrei visto tante altre soluzioni. Poteva essere Santon da quella parte, Chivu magari spostato in mezzo al campo, soprattutto dopo l'infortunio di Montari. Avremmo potuto pensare a Cordoba, magari gioca esterno con Maicon, una gabbia, ma Cordoba più arretrato e Maicon più avanzato, non lo so. Comunque qualunque soluzione, meno che vedere questo Bale scorazzare inattaccato e imperturbabile da quella parte. Muslera dichiara: sto bene, io sono tranquillo per domenica, non vedo perché non dovrei esserci nel derby, e quindi è a patto che oggi no, è dopo l'epocografia questo, dopo, quindi gli esami strumentali hanno promosso il portiere della Lazio per domenica, dovrebbe esserci, anzi a questo punto ci sarà. Intervallo, borse. Si sostiene, verrebbe da dire in dottrina, che l'Inter sarà giudicabile seriamente una volta per tutte quando potrà giocare al completo. È una teoria ampiamente condivisibile, però è anche già novembre e quindi, insomma, prima o poi bisognerà pure che questa squadra si metta in quadro da un punto di vista fisico, clinico. Io ne parlerei col dottor Piero Volpi, che oltre a essere un traumatologo illustre, un ex calciatore, consulente scientifico di UEFA, del settore tecnico federale, dell'associazione calciatori, insomma, do un taglio al curriculum perché dovreste conoscere la memoria da una parte e dall'altra perché è stato così cortese da accettare questo intervento radiofonico tra un intervento operatorio e l'altro. Buongiorno dottor Volpi. Buongiorno a tutti, ciao Gigi. Senti, con quello accusato ieri sera da Montari, l'Inter è a 16 infortuni muscolari in stagione, 25 in totale. 16 mi sembra un numero da allarme rosso al 3 novembre. Sì, il numero è molto elevato, anche se c'è da dire che se si guarda il panorama non solo italiano delle maggiori squadre, mi riferisco quindi alle altre squadre che fanno le coppe, diciamo, in Italia, ma anche al panorama europeo, il trend degli infortuni è molto elevato. Questo dovrebbe preoccupare, ormai lo diciamo da tempo, io lo dico da tempo, certo, dalle istituzioni europee in giù tutti, perché un bel giorno si farà come nello sci che si rischia di chiudere una gara di Coppa del Mondo perché non ci sono gli atleti, anche se il parco atleti è ovviamente minore rispetto al calcio. Venendo alla tua domanda, è sicuramente una cosa che preoccupa, so che ha preoccupato i dirigenti dal presidente in giù, perché ho letto che hanno fatto anche delle riunioni, hanno avuto delle relazioni, voleva delle relazioni in merito. È chiaro che in sintesi il cambio dell'allenatore, ogni cambio dell'allenatore può portare a questo, ma a maggior ragione quando cambia un allenatore i dirigenti devono sapere che puoi andare incontro a una situazione di questo tipo. Il secondo fattore è un fattore che una squadra che l'anno scorso ha dato molto in termini nervosi e fisici per raggiungere degli storici traguardi per la società, certo, e quindi forse anche questa analisi andava fatta magari a luglio un po' più accuratamente da tutti gli staff, tecnico, medico e preparatori atletici. E terzo punto, devo dire, senza poi si può entrare anche di più successivamente in merito, devo dire che quando succedono queste cose non c'è nessuno esente da colpe, che sia chiaro, quindi non è lo staff tecnico, non è lo staff dei preparatori e non è neanche si possono mettere in atto delle azioni preventive apposta. Certo, bisogna sedersi a tavolino, fare delle riunioni anche settimanali, anche continuative, proprio per cercare di porre rimedio a una situazione di questo tipo. Quindi, io ho cercato di sentitizzarti le linee guida. Certo, certo, nel senso che, se ho capito bene, non c'è una componente soltanto una componente responsabile, sono responsabili tutte le componenti, e quindi quella tecnica, quella medica e quella dirigenziale. Certo, è difficile stare fuori, perché quando lavori in equipe, oggi si lavora in equipe, è chiaro che comunque se partecipi al tavolo della discussione, è chiaro che non puoi dopo tirarti fuori e dire ma io non c'ero. Certo. Non è giusto. Tu hai detto una cosa che ieri ci aveva detto en passant Ulivieri, presidente italiano dell'Associazione Allenatori, a questo proposito, anche se non riguardava l'Inter direttamente, era un discorso più generale, cioè con un allenatore nuovo, ci aveva detto Ulivieri, qualche infortunio in più è da mettere automaticamente in preventivo, perché questo lo insegna la statistica. Tu hai echeggiato un concetto di questo genere, e io ti domando allora, provando a cercare di capire, anche se la domanda non è scientifica ed è volgare, in questo caso la gestione nuova di Benitez non ha tenuto conto dell'usura che lo scorso anno la cavalcata vittoriosa, ma anche la vera usura fisica e psicofisica di Mourinho ha causato, oppure è stata tale l'usura dell'anno scorso che oggi questa situazione è difficile comunque da gestire? Ma devo dire che forse è stata non dimenticata, ma magari un po' sottovalutata, cioè si è pensato comunque che con questo parco giocatori, con questa rosa sicuramente molto forte, perché chiaramente non dimentichiamoci che pur con tutti questi infortuni la squadra è in lizza per la Coppa ed è seconda in campionato, quindi voglio dire, sì. Mi sembra che comunque dal punto di vista degli infortuni appare eclatante una situazione di preoccupazione, devo dire che dal punto di vista dei risultati la situazione è meno preoccupante. È ancora sotto controllo. È sotto controllo, e tu sai bene che il problema la bilancia diventa fortemente negativa quando alla prima si associa anche una carenza di risultati, allora diventa drammatica. Certo. Perché tu devi recuperare dei risultati con una squadra in carenza di forze e di organici. Quindi devo dire che la situazione, a mio modo di vedere, è una situazione che preoccupa dal punto di vista degli infortuni, ma molto meno dal punto di vista dei risultati. Vox Populi, lo scorso anno con Mourinho, negli ultimi due anni con Mourinho, ma infortuni muscolari pari praticamente a zero. Arriva Benitez, 16 infortuni muscolari in tre mesi di attività, calcolando anche le partite precampionato. Scientificamente come si può rispondere a questo rilievo? Ma guarda, scientificamente bisognerebbe essere lì e valutare la situazione globale e poi individuale. Oggi ti devo dire che bisogna essere, quando sei in queste squadre, devi analizzare più individualmente il giocatore che collettivamente. Sì. Questa è la prima analisi, perché i giocatori sono ovviamente una squadra, ma sono estremamente variabili e hanno delle variabili enormi dal punto di vista fisico, dal punto di vista dell'età, dal punto di vista del recupero. E quindi questo e si andrà sempre di più verso la conoscenza e lo studio individualizzato del giocatore. Quindi con preparazioni anche differenziate. Sì. Non è proprio vero che Mourinho non ha avuto infortuni, perché il primo anno ha avuto molti infortuni, poi da persona intelligente, capace qual è, la seconda stagione ha cambiato, per me, almeno dall'esterno, vedendolo, analizzandolo, un modo di approccio alla situazione, ha cercato di far allenare i giocatori giocando e utilizzando, non facendo turnover, e questo è stato secondo me il vero miracolo di Mourinho, oltre che quello tattico di cui tutti parlano, dell'utilizzo di Eto'o e di Pandev sulle fasce facendoli rientrare, sì. Ma il vero miracolo di Mourinho è stato portare una squadra in condizione sulle tre competizioni senza infortuni, con un turnover estremamente limitato. 15 anni giocavano sempre, anche nelle partite di Coppa Italia. Quindi devo dire che questo è stato il grande merito di Mourinho. E lui cosa faceva? Faceva allenare i giocatori giocando, cioè praticamente responsabilizzandoli e giocandogli, dicendo che chiaramente loro recuperavano anziché allenarsi quei due giorni che avevano, e poi giocavano domenica, mercoledì. È stato, devo dire, fortunato, perché è chiaro, anche i risultati ti devono appoggiare, sì. E non devi avere degli infortuni non prevedibili, perché nel calcio esistono anche degli infortuni. Vedete, domenica, sabato, per esempio, in Milan-Juve, l'infortunio fra Bonera e De Ceglie è un infortunio che non puoi prevedere, certo, e quindi certo. È uno scontro istituzionale del calcio. Esatto. E quindi sono anche degli, lui è stato anche fortunato, devo dire, Mourinho, che non ci sono stati, che non gli è capitato, che gli hanno fatto fuori dei giocatori. Però questo è stato il grande mezzo. Quindi devo dire che è stata, tornando alla tua domanda iniziale, un po' sottovalutata tutta questa questione. Dimentico un'ultima cosa, te la segnalo, sì. Che in mezzo c'è stato anche un mondiale, non dimentichiamo, sì, certo, quindi certo. Molti dei giocatori dell'Inter sono stati anche psicologicamente, anche se non fisicamente, esempio di Lito, impegnati nelle loro nazionali. Non c'è dubbio. Sai perché secondo me crea fa effetto questa situazione? Ti parlo di me, per esempio, di ex modesto calciatore, insomma, a livello magari poco più che amatoriale, però questo impatto visivo di vedere Julio Cesar che rallenta la corsa e poi si ferma perché si è stirato, Cambiasso quasi, quella di Risale di Montari è già un po' meno traumatica, cioè sono sequenze quasi da diciamo da scapoli ammogliati, ma non voglio mancare di rispetto a loro, sia ben chiaro, sono le cose che capitano a noi, capitavano nel mio caso, capitavano, ma proprio al passato remoto, quando non eri ben preparato, non eri allenato, tentavi lo scatto e ci restavi. Ecco, vederlo su professionisti di questo livello dopo così tanti anni, nel 2010, e con questa, insomma, con questa clamorosità, non si può dire, ma quasi, ecco, questo secondo me è un effetto, è un'immagine traumatizzante. No, è vero, però ti devo dire che per esempio il portiere fa storia a sé per due motivi. Fa storia a sé innanzitutto perché, da quello che almeno si sente, il Cesar ha sempre avuto dei problemi un po' alla schiena, quindi chiaramente questo può magari far sì che magari anche nell'allenamento, nella partita, magari poi come dire, utilizzi male anche nella corsa agli arti inferiori, perché magari poteva avere qualche fastidio, qualche problemino. Ma detto questo, il portiere sta anche fermo magari parecchi minuti, soprattutto sì. nelle partite serali, così magari poi ti capita di fare uno scatto repentino. Non è come il giocatore che corre sempre, certo, praticamente il giocatore è sempre in corsa, anche se una corsa leggera è sempre in movimento. Lui magari sta fermo anche parecchio, magari 10 minuti senza avere, o 8 minuti, 5 minuti senza avere il contatto con l'azione o con la palla. Questo per dirti che anche Abbiati, andando sull'altra sponda, a Parma ha avuto dei problemi muscolari, poi una nuova piccola recidiva, proprio perché nel semplice calciando la palla, verissimo, perché sei freddo, eccetera. Quindi sul portiere direi che la scusante l'abbiamo, cioè sì. Comunque l'attenuante, più che la scusante. Invece la Moria interista è a centrocampo, adesso al di là di quell'eccezione di Julio Cesar. Esattamente. Invece lì ritorniamo al discorso che abbiamo detto prima, cioè quello che evidentemente, come abbiamo detto, forse un'analisi più accurata, una valutazione più accurata, e anche di tutta la quello che è stato fatto l'anno scorso del mondiale, soprattutto per questi giocatori, e dell'inizio della preparazione, forse andrebbe, penso sia già stata fatta, perché assolutamente sarebbe grave se non fosse stata fatta, ma andrebbe meglio analizzata. Va come minimo ripassata, insomma. Come minimo ripassata. Piero, io ti lascio ai tuoi pazienti, ringraziandoti come sempre per la tua disponibilità. Ringrazio te, Gigi, e buon pomeriggio. Grazie ancora, caro dottor Volpi. Noi torniamo su Strade e Autostrade. Vediamo subito che cosa ha scovato Nicola Filippone nella storia dello sport per il 3 novembre. Sembra ieri. 3 novembre 1946, settima giornata di campionato. A Genova va in scena il primo derby tra il Genoa e la neonata Sampdoria. Se lo aggiudicano proprio i blucerchiati con un perentorio 3-0. Il primo gol nella storia della stracittadina Ligure lo realizza al 26esimo minuto l'attaccante Giuseppe Baldini, detto Pinella. Baldini, che in seguito si trasferirà proprio al Genoa, sarà anche il primo a segnare nel derby della Lanterna con entrambe le casacche. Beh, un ricordo di grande fascino, 3 novembre 46. 30 anni più tardi, mi segnala sempre Nicola Filippone, il 3 novembre del 76, il Torino giocò il ritorno in Coppa Campioni sul campo del Borussia Mönchengladbach, che allora è una squadra, una delle più forti squadre d'Europa, aveva perso 2-1 in casa, già a Torino, quindi era una situazione difficile senza nemmeno Pecci e Claudio Sala, che erano due perni assoluti. Bene, anzi male, il belga Delcourt, l'arbitro della partita, espulse consecutivamente prima Caporale, poi Zaccarelli e infine il portiere Castellini, sicché il Torino finì, giocò l'ultima mezz'ora di quella partita in otto con Ciccio Graziani in porta e la partita finì curiosamente, anzi incredibilmente, 0-0. Messaggi ne sono arrivati parecchi nel frattempo. Per esempio Mario scrive: io pensavo che lei avesse più stima di Allegri, lo ritiene succube del padrone fino a questo punto, cioè al punto di tagliare i capelli. Beh, succube no, però diciamo che, guardi, le risponde direttamente, non io, le risponde Nicola Magnezzi con un'altra mail che ho appena ricevuto, dice: Allegri è andato al barbiere dopo le parole di Berlusconi, è un altro segno di debolezza trasmesso anche alla squadra. Ora, no, non credo sia proprio così, ma insomma un segno di forza non direi. Quanto invece alle tre dimensioni, quando Bale si è lanciato da solo, scrive Jacopo Righini, in azione del 3-1 e poi accelerato, sembrava la PlayStation, sembrava un'azione alla PlayStation, altro che tre dimensioni. Ed è vero, è stata una sequenza assolutamente impressionante per potenza innanzitutto, ma poi per come questo giocatore al culmine della velocità e della potenza per l'appunto riesce a essere morbido con il piede, è molto raro quando accade, e richiama grandi e storici giocatori di un tempo. Aldo è in linea da Siena, buongiorno. Buonasera dottore. Dica. E grazie per avermi richiamato. Allora, io volevo parlare proprio di Bale. Ieri sera, ho 49 anni e quindi ne ho visti tanti, gli esterni bassi e alti, e io sono rimasto folgorato a questo giocatore, anche perché di fronte non aveva Cinciripini, ma aveva il meglio terzino destro del mondo, e questo se l'è mangiato, proprio mangiato, l'ha mangiato all'andata e al ritorno. E come diceva lei, una qualità impressionante di questo giocatore è che a 100 all'ora va sul fondo e su 10 palloni che mette, 10 le mette sul fedio, sulla testa dell'attaccante. A me sembra di rivedere la qualità di Serginio con la potenza e Gullit. Purtroppo sono milanista, quindi se nella sua esperienza ha mai visto uno così, ecco, tutto questo. Sì, le dirò anche che insomma, il parallelo con Serginio mi sembra che sia un po' approssimato per difetto, ma difetto nel senso del povero Bale, che credo meriterebbe anche di più. Il miglior Serginio ha fatto effettivamente delle cose che possono ricordare quello di Bale ieri sera, ma il miglior Serginio è poi non con questa velocità e questa perentorietà, io credo, anche se a parità poi di piede morbido al momento buono, questo senza dubbio. Sto leggendo un'ultima ora di Sky che insomma, c'è una delegazione dei giocatori dell'Inter guidata da Eto'o in visita in questo momento all'Hotel Meliá di Milano, che sarebbe qui a 50 metri dalla sede del Sole 24 Ore, in visita a Mourinho. Sto guardando se abbiamo delle voci ancora da ascoltare. Beh, potremmo sentire proprio la vigilia di Mourinho dedicata a Mina Real di stasera. Non è nostro lavoro cercare di capire come sono più forti, il nostro lavoro è sapere come vogliamo giocare, e lo sappiamo, e sapere che una squadra top perde una volta è molto difficile perdere due volte, e per questa ragione ci aspettiamo un Milan più forte che sabato scorso, con più motivazione, più concentrazione, più voglia, e una partita molto importante per loro anche dal punto di vista psicologico. Una domanda di Max da Perugia: mi toglie una curiosità, ma Bale c'era in Sudafrica con la nazionale di cappello? No, perché è gallese Bale, quindi faceva un po' fatica a giocare nella nazionale di Inghilterra. Domenico ha chiamato dalla provincia di Bari, buongiorno. Buongiorno signor Garanzina. Senta, ma io secondo me Benitez avrà bisogno di qualche corso a Conversano, secondo me, perché tatticamente non lo vedo ben preparato. Praticamente 15 giorni fa Bale vinceva quasi la partita e ieri ha fatto la stessa cosa, non è stato capace di prendere qualche contromisura. E poi come mai il presidente Moratti non ha preso in considerazione Beppe Baresi? Grazie e l'ascolto per radio. Beppe Baresi non lo so, adesso che Benitez sia diventato un, un, un demente sul piano tattico arrivando in Italia mi sembra un po' improbabile. Che dopo la partita d'andata insomma occorresse a parer mio studiare un po' meglio quella di ritorno, non c'è nessun dubbio, però dato che io sono sempre per la responsabilità e i meriti e i torti dei giocatori soprattutto rispetto a quelli dell'allenatore, beh, io credo che anche una difesa che può vantare mai con Lucio Samuel, un centrocampo che può vantare gente come Zanetti, parlo di oltre che di valore assoluto, parlo di esperienza, credo che tutti insieme avrebbero dovuto preparare un pochino meglio questa partita, perché c'è un dato che, insomma, se scorporiamo un dato, questo dato è impressionante. Il dato scorporato è il seguente: dopo il primo tempo di Inter-Tottenham, si era sul 4-0 per l'Inter, dopo i tre tempi successivi siamo sul 6-1 per il Tottenham, e di questi sei gol che il Tottenham ha segnato in questi tre tempi, i primi tre li ha firmati Bale, e degli altri tre due li ha praticamente confezionati lui, no? Perché si trattava solo di seguire l'azione, come ha fatto Pavlicenko alla fine e quell'altro prima, per metterla dentro praticamente a porta vuota. Quindi è indubbio che c'è stata una sottovalutazione, ma non la imputerei soltanto al tecnico, perché mi sembra che come minimo un qualche concorso di colpa ci sia. Mi pare manchi un minuto al termine del programma, quindi forse non è il caso di ospitare altri interventi. Guardavo che sulle agenzie la Lazio non è poi così convinta delle dichiarazioni di Muslera, nel senso che ha preso atto con piacere del fatto che Muslera si sente di giocare, si è autocandidato per il derby domenica, questa ecografia ha escluso lesioni in atto a fibre muscolari, ma c'è ancora un po' di cautela residua. Cassano, novità, non ce ne sono, c'è una dichiarazione del prete che ha sposato Cassano, ma insomma credo che sia tutto sommato, siamo nell'ambito del superfluo. Nel 2005, dopo Istanbul, Benitez era l'eroe degli interisti, scrive un ascoltatore di nome Paolo da Pordenone, adesso è diventato un incapace. Beh, ma sic transit gloria mundi, non è una novità assoluta nemmeno questa. Grazie a Filippo Auregi in regia, grazie a Franco Piantanida in redazione, ci risentiamo domani. Tempo di sport.